9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, in questo martedì 24 agosto l'interrogativo che ci poniamo è duplice. Da una parte, se fosse stati voi, cosa avreste deciso di fronte alla vicenda che ieri ha interessato 3 lavoratori licenziati dalla Fiat di Melfi, reintegrati dal giudice del lavoro, e di fronte all'ordinanza di reintegrazione, perché il giudice del lavoro ha ritenuto che l'azienda nei licenziati avesse preso questa decisione con evidenti atteggiamenti antisindacati. Ma se fosse state voi nell'azienda, poiché l'azienda è convinta che questi 3 dipendenti attivisti sindacali nello sciopero dello scorso 7 luglio non solo hanno pienamente espresso la loro facoltà di scioperare, ma bloccando dei carrelli automatici che rifornivano la linea sulla quale lavoravano altri colleghi che invece altrettanto legittimamente si avvalevano della facoltà di non scioperare, l'azienda ritiene che così facendo abbiano procurato A. un danno all'azienda, B. Abbiano contravvenuto agli obblighi che ogni lavoratore ha nei confronti dell'azienda, perché sono andati fuori dal diritto sindacale, e quindi l'azienda, poiché ha pendente un ricorso verso la decisione di reintegro del giudice del lavoro, A, e poi B, ha anche sporto azione penale nei confronti dei lavoratori per danno procurato all'azienda. Ecco, se voi foste stati al posto dell'azienda e foste convinto di tutto questo, oltre ad ottemperare all'ordinanza del giudice, e cioè a reintegrare economicamente i lavoratori, li avreste rimessi in linea, come ieri la Fiat non ha fatto, ritenendo che, poiché il suo giudizio su questi lavoratori non muta ed è pendente il ricorso all'azione penale, non li rimette in condizioni di procurare altri danni alla linea di lavoro ai colleghi? Oppure la vostra opinione è quella che un'ordinanza di reintegro da parte del giudice del lavoro non configuri solo la pienezza del reintegro dei diritti economici, ma anche entri nell'organizzazione del lavoro e imponga all'azienda di far ritornare esattamente dove erano e a far fare le cose che facevano prima? Ecco, questa è la domanda iniziale da cui dobbiamo partire, perché come leggete sui giornali, avete visto i telegiornali ieri sera, questa vicenda ha mostrato che nell'intera affair Fiat si va a uno scontro duro, si va a un tono e ad argomenti molto muscolari. Poiché la FIOM, che è quella che ha detto no agli accordi di Pomigliano, che aveva detto no agli accordi interconfederali del febbraio 2009 sul salario decentrato, di cui questa vicenda Fiat e Pomigliano è per così dire la prima applicazione per nuove relazioni industriali capaci di dare una svolta produttiva al gruppo automobilistico, ma Confindustria è d'accordo, all'intero paese, ecco che dal no agli accordi e dalle contestazioni verbali, dai voti espressi in senso contrario a Pomigliano, ottenendo anche un numero di consensi ben superiore a quelli che sono gli iscritti alla FIOM, si passa poi alla fase successiva, e la fase successiva è quella di contestazioni all'azienda da parte del sindacato dei metalmeccanici della CGIL e dei COBAS di comportamenti antisindacali, e si va al giudice del lavoro. E attenzione, che quando si inizia ad andare al giudice del lavoro è evidente che l'intero iter successivo di ciò che l'azienda ha dichiarato di voler fare, e cioè accordi stabilimento per stabilimento con Newco, con regole nuove di produttività, con un impegno esplicito da parte dei dipendenti a uscire dal quadro del contratto nazionale per deroghe che comportino impegni espliciti da parte dei lavoratori e dei sindacati che li accettano su turni aggiuntivi di produzione, straordinari notturni in cui non si può scioperare, una diversa organizzazione dei tempi produttivi in maniera tale da consentire più turni e quindi una diminuzione per esempio dei tempi di pausa. Ecco, se si va all'impugnativa giudiziaria di fronte a tutto questo, la probabilità da una parte che si innalzi la tensione e dall'altra che tutta la vicenda della nuova produttività Fiat, banco di prova di nuova relazione industriale, si incarti e imbocchi invece la strada solo della contesa giudiziale è molto elevata. E la domanda, la seconda domanda che vi faccio, pregandovi di intervenire, è se davvero possiamo permettercelo, dove in questa domanda io non metto affatto implicito o esplicito la conseguenza che si debbano accettare limitazioni dei diritti sindacali o della libertà dei lavoratori. Io non credo che siano toccati da questo, visto che le richieste dell'azienda sono esplicite, le richieste che fa Confindustria sono esplicite, i sindacati possono confrontarsi con queste. Ma quello che mi chiedo io è se abbiamo davvero capito le condizioni della nuova produttività richieste dalla svolta mondiale che è in corso. Se abbiamo davvero capito, in altre parole, che per difendere oggi gli occupati dei 5 stabilimenti Fiat e di tutto l'indotto è necessario fare qualche cosa di paragonabile a quello che per esempio grandi aziende automobilistiche fecero in Germania pochissimi anni fa, quando, avendo i margini di produttività molto ridotti e i margini di utile molto compromessi, per esempio la Volkswagen ottenne dai sindacati e dai suoi dipendenti di lavorare l'equivalente di 5 giorni in più l'anno senza un solo marco di retribuzione in più. Per difendere l'occupazione, guardiamo cosa hanno accettato i sindacati dell'auto in Chrysler, controllata sempre dalla stessa Fiat negli Stati Uniti. Hanno accettato retribuzioni orarie per i nuovi dipendenti e per i giovani di soli $14 l'ora. Ora, in Italia nessuno chiede più lavoro, orario di lavoro senza paga come in Germania, e nessuno chiede retribuzioni differenziate per i più giovani e meno qualificati come negli Stati Uniti. Eppure questo è ciò che ha consentito a Chrysler di risanarsi e di tornare a fare l'utile, a Volkswagen di essere in condizioni, perché così sarà, di diventare il primo gruppo automobilistico mondiale, superando Toyota quest'anno con un fatturato atteso di 67 miliardi di euro. Ebbene, ciò malgrado, Fiat e Chrysler, la somma di Fiat e Chrysler, quest'anno hanno un fatturato atteso 27 miliardi di euro. La Fiat è una ventina di miliardi di dollari, 20 miliardi e qualche cosa di dollari Chrysler. E per questa sola somma, la Fiat di John Elkann e Sergio Marchionni si è posta in condizione, con questa operazione strepitosa che porta un'azienda di cui spesso abbiamo criticato il fatto che sembrasse vicino al fallimento, la colloca invece al quarto posto nel mondo, perché dopo Toyota e dopo Volkswagen, General Motors e Ford, perdonate, al quinto, si mette a pari grado di fatturato con Mercedes, staccando di molte lunghezze BMW, che pure va benissimo, e di molte lunghezze Peugeot e Renault. Ecco, ci possiamo noi permettere il lusso di non capire che queste nuove condizioni di produttività abbisognano di nuove relazioni industriali e di una grande flessibilità, non nel rinunciare a contrattare con le aziende, ma nell'accettare di contrattare in tempi rapidi con le aziende, stabilimento per stabilimento, sito produttivo per sito produttivo, condizioni di utilizzo migliore degli impianti, visto che da noi la base non è quella di retribuzioni differenziate e non è quello di più lavoro per meno paga, ma è invece di più lavoro, sì, ma in cambio di più retribuzione ai lavoratori dipendenti e oltretutto con più retribuzione detassata, perché questo è ciò che è consentito dai provvedimenti vigenti nel nostro paese. Ecco, questa è la mia seconda domanda, cioè io mi auguro che ci occupiamo oggi non solo dello specifico merito della vicenda ieri di Melfi e di cosa devono fare le aziende se farsi dire dal giudice in quale posto della propria organizzazione produttiva deve andare un reintegrato, ma anche che ampliamo l'occhio alle condizioni non solo della Fiat ma della produttività di cui il nostro manifatturiero ha bisogno, perché il 70% della nostra crescita potenziale viene dall'export manifatturiero, e lì i tedeschi non fanno prigionieri, sono i nostri primi diretti concorrenti, stanno crescendo a un ritmo nel secondo trimestre di quest'anno del 2,2% del PIL, che significa un ritmo del 3,4-3,5 l'anno, noi stiamo crescendo a un ritmo dell'1%. Tutto ciò che perdiamo in questi mesi, secondo me, si riverbererà per anni in meno occupati, meno crescita, meno base produttiva, meno possibilità di difendere il posto del lavoro. A meno che, e io capisco, voi pensiate che i posti di lavoro si difendano o si creino per ordinanza del giudice o per decreti legge. Allora, in quel caso, mi taccio. Fine della mia introduzione, la parola agli ospiti di oggi. Abbiamo i due punti di vista, per così dire, sindacali. Abbiamo Maurizio Landini per la FIOM e Giuseppe Farina, e poi abbiamo la professoressa Fiorella Costoris, di cui mi sono piaciuti in queste settimane gli interventi che ha fatto a proposito della necessità nel nostro paese di aprire appunto un po' gli occhi e capire che per affrontare i due punti deboli dell'occupazione giovanile e dell'occupazione femminile, soprattutto concentrate al sud, probabilmente c'è bisogno di qualche novità rispetto a come funzionano oggi, guardando appunto a ciò che si muove nel mondo. Direi che la cosa migliore è cominciare però da Maurizio Landini per la FIOM. Dal vostro punto di vista, qual è il seguito della vicenda ieri di Melfi, Landini? Innanzitutto bisogna ricostruire esattamente esattamente i fatti. Quando a luglio i lavoratori a Melfi hanno scioperato, ed era uno sciopero unitario indetto da tutta la RSU, era perché succedeva questo, che il turno del pomeriggio la Fiat lo metteva in cassa integrazione e chi faceva la notte gli veniva chiesto di aumentare il numero di macchine da produrre, senza rispettare l'accordo aziendale in vigore che dice che se vuoi fare più macchine in un turno devi aumentare il numero delle persone che fai lavorare su quelle linee. Quindi le persone chiedevano semplicemente di applicare l'accordo aziendale e su questo unitariamente tutta la RSU ha proclamato sciopero. Dopodiché la Fiat si è inventata, e questo è stato riconosciuto anche dal giudice, che durante uno di questi sciopero i lavoratori avrebbero bloccato questo fantomatico carrello. Ora, ciò che è evidente è che c'è stato un processo. Ci sono stati dei testimoni, ad esempio per parte nostra sono stati portati testimoni di lavoratori iscritti ad altri sindacati o non iscritti al sindacato, e alla fine il giudice, e c'è un decreto esecutivo che lo dice con molta chiarezza, dice che quel carrello famoso era già fermo prima dello sciopero e non è ripartito nemmeno dopo lo sciopero, perché si è dovuto intervenire per farlo ripartire. Al punto che non solo il giudice ha condannato la Fiat per comportamento antisindacale come previsto dall'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, ma ha anche ordinato il reintegro pieno dei lavoratori nel proprio posto di lavoro, semplicemente perché il fatto contestato ai lavoratori non è stato commesso e non esisteva. Allora, qui siamo di fronte a un primo punto, perché se c'è una sentenza, o meglio, un decreto esecutivo frutto dell'articolo 28 perché l'azienda è stata denunciata per comportamento antisindacale applicando una legge del nostro Stato, il primo punto è che la legge, se è uguale per tutti, deve valere dappertutto. E quindi questi lavoratori ingiustamente accusati di un fatto che non hanno commesso debbono poter tornare a fare il lavoro che fanno, riconoscendoli la dignità che hanno. Ieri la Fiat invece ha proposto che sì, questi dovevano, potevano rientrare, ma avrebbero dovuto rimanere nella saletta della RSU, tra virgolette, in permesso sindacale anziché lavorare. Io trovo che questo sia un elemento di offesa sia alla dignità dei lavoratori, semplicemente vogliono essere pagati per il lavoro che fanno, sia verso l'organizzazione, perché noi, mi permetto di dire, non siamo un'organizzazione che accetta di essere pagata dalle imprese, noi siamo pagati dai lavoratori che pagano volontariamente l'iscrizione al sindacato. Perché? Allora io credo che sarebbe stato un atto di saggezza e di responsabilità dell'impresa che di fronte a un decreto esecutivo del Tribunale, questo decreto esecutivo venga applicato integralmente. Poi l'azienda considera sbagliata e vuole ricorrere, è una sua libertà, è un suo diritto, lo faccia, ma nel frattempo i lavoratori debbono stare lì, altrimenti con questa azione la Fiat vuole sancire una cosa che io credo sia grave. E cioè che nei suoi stabilimenti la legge, lo statuto dei lavoratori non si deve più applicare. Chiede quasi che ci sia un'extra territorialità degli stabilimenti della Fiat. Landini, per far capire meglio a chi è a casa, di là ovviamente io non penso affatto che la Fiat voglia l'extra territorialità della legge, ma questo è un suo giudizio. Ma per fare capire, visto che voi stessi ieri, accompagnando con l'avvocato del sindacato i lavoratori nell'arco della giornata, e lei ha spiegato che cosa è avvenuto, avete annunciato poi, a seguito dell'esito della giornata, oltre a un esposto penale nei confronti dell'azienda, però avete chiesto anche un passo di nuovo nei confronti del giudice del lavoro interpretativo, perché il giudice del lavoro stesso dia l'interpretazione autentica, che faccia testo oltre che precedente, a quel punto su quali debbano essere le conseguenze di un decreto di reintegro, se esse debbano anche concretamente configurare il ripristino al posto di lavoro precedente nelle mansioni precedenti. Il solo fatto, mi scusi se chiedo, che venga annunciata un'istanza di questo tipo al giudice del lavoro lascia aperto, cioè fa capire che nel nostro ordinamento, una volta che c'è un decreto di reintegro, diciamo l'applicazione poi, e se esso consista solo nel rapporto economico o nella ripresa delle mansioni precedenti al posto precedente, è comunque aperta, altrimenti voi stessi non fareste un'istanza di questo genere. Ma è solo per capire, non per polemizzare. Brandini. No, guardi, lei secondo me è mal informato. Quello che abbiamo fatto, glielo dico. Noi ieri abbiamo fatto un esposto alla magistratura, passando anche dai carabinieri con una denuncia, perché la FIA nel decidere di non voler applicare il decreto esecutivo che nasce da un articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori, sceglie di commettere un reato, perché c'è una violazione del codice penale. Noi questo abbiamo fatto, altre cose le valuteremo, ma questo è quello che abbiamo fatto. Tra l'altro c'è una giurisprudenza. La cosa che ho letto erano i comunicati di ieri lanci di agenzia, Landini, non me la sono inventata. Comunque, no, se non c'è, ne prendo atto. No, ma si figuri, se non io c'è. No, ma se mi lasci parlare, siccome lei dice che cosa ha fatto la FIOM, io mi permetto di dirle che, rappresentando la FIOM, sono in grado di dirle cosa abbiamo fatto. Poi cosa potremmo fare ancora lo discuteremo, non mi pare oggetto della discussione di oggi. No, si mette. Io quello che le sto semplicemente dicendo è che quello che noi oggi abbiamo attivato è questo. Così, e cioè la chiaro. Fiat ha scelto di fare un reato e noi da questo punto di vista... Questo è il vostro punto di vista. Bene, ora sentiamo un secondo la professoressa Castolis, che tra pochi minuti ci lascia, e poi proseguiamo invece nel dibattito con Farina della FinCISL e di nuovo Landini. Professoressa Castolis, questa l'idea che andiamo dal giudice e non guardiamo le condizioni che lei ha richiamato di differenziali fiscali, differenziali retributivi che nei altri grandi paesi servono a fare occupazione aggiuntiva per i giovani e per le donne, che impressione le lasciano? Che opinioni le suscitano? Ma in effetti ricorrere al giudice mi sembra sacrosanto se necessario, tant'è che si sa che si deve licenziare per giusta causa e poi bisogna accettare che la causa sia effettivamente giusta. Il punto è che il concetto di giusta causa è interpretato in modo molto diverso in vari paesi e al di là poi della magistratura esiste una situazione di mercato, nel caso poi del mercato automobilistico e mondiale, del quale certamente bisogna che le aziende, i sindacati, il governo e anche forse la magistratura nel trattare il concetto di giusta causa tengano conto. Allora, da questo punto di vista, lei ha richiamato in apertura il fatto che ad esempio la Fiat negli accordi con la Chrysler è riuscita a far passare un piano nel quale si rimetteva in discussione assolutamente molti elementi, i sindacati li hanno accettato, i lavoratori l'hanno accettato, fra questi ad esempio che i nuovi ingressi venissero pagati $14 l'ora. Io nell'articolo del Sole 24 Ore che lei ha citato in apertura ho detto che questa corrisponde alla paga di una babysitter abbastanza qualificata e d'altra parte, e quindi è molto bassa ed è anche la metà circa di quanto ricevessero coloro che erano entrati precedentemente. Ma questo, come dice lei giustamente, da un lato corrisponde al salario che gli operai dello stesso settore ricevono in altri posti degli Stati Uniti, in imprese coreane, giapponesi eccetera, quindi nelle imprese competitors rispetto a quelle in questione, la Fiat Chrysler. Dall'altro lato, questo tipo di nuovo trattamento è considerato dagli operai di là qualche cosa che certamente non piace molto, ma è sempre meglio che niente, e infine è servito ad aumentare l'occupazione lì dove sembrava essere prossimi al fallimento, di circa 1000 persone, i turni di lavoro sono aumentati, insomma praticamente tutti coloro che lavorano in quel settore, in quella città, in quegli stabilimenti, sembrano essere contenti della soluzione che hanno adottato, sia pure una soluzione non indolore. Allora, da noi le soluzioni non indolori o non troppo, non indolori del tutto, non esistono indubbiamente, però esistono soluzioni che secondo me potrebbero essere assolutamente accettabili, come ad esempio, non so, ridurre di 10-15 minuti il tempo libero per la colazione, piuttosto che aumentare di un'ora alla settimana l'orario di lavoro, cose di questo genere. E sarebbe estremamente importante, perché anche noi in Italia dobbiamo poter competere con il resto del mondo. Dobbiamo farlo in tanti modi, certamente non solo aumentando l'orario di lavoro, bisogna più in generale aumentare la produttività, perché il nostro costo del lavoro per unità di prodotto è salito ininterrottamente a causa del declino della produttività o del ristagno della produttività, intanto che nei paesi che si preparavano meglio a competere, come la Germania, la produttività cresceva rapidamente. E lo si deve fare, ripeto, in tanti modi, ma un primo modo, un modo a cui i lavoratori dovrebbero essere pronti a pensare, è quello di lavorare di più e lavorare meglio. Poi bisogna fare più formazione, poi bisogna fare più investimenti, alcune di queste cose le deve fare lo Stato, altre cose le devono fare le aziende, ma in un contesto nel quale si smette di pensare che qualunque soluzione non del tutto indolore, ripeto, come un piccolo aumento di orario di lavoro, sia considerato un attentato ai diritti dei lavoratori. Questo non è, e bisogna semplicemente adeguarsi ai tempi che sono cambiati. E vorrei aggiungere una cosa anche in un senso molto importante, perché l'anno 2009 è stato un anno nel quale non c'era domanda per le imprese, non c'era, perché non c'era all'interno e non c'era nel resto del mondo, nel mercato mondiale, e infatti il commercio mondiale è caduto drasticamente nel 2009. Adesso la domanda mondiale c'è, e in alcuni posti c'è anche la domanda interna. Allora, di fronte a un cambiamento radicale di regime economico, se così posso dire, era giustificato ridurre l'orario di lavoro nel 2009, e lo si è fatto con la cassa integrazione e con altri sistemi. Adesso bisogna poter aumentare l'orario di lavoro, e bisogna poterlo fare senza però aumentare i costi del lavoro per unità di prodotto. Professoressa, la parità di salario per mansioni, età, dipendenti, il numero di anni da cui si è dipendenti, e la parità anche di pressione fiscale e contributiva, che nel nostro paese rappresentano, per così dire, dei punti sui quali è molto difficile vedere articolate opinioni, perché si presume o si pensa molto estesamente che variare, modificare questi principi costituisca degli attentati ai diritti dei lavoratori, cioè dia delle leve nelle mani delle imprese, di chi organizza la funzione produttiva, che vengono giustificati con la necessità di aumento di produttività e servano poi in realtà a reincardinare potere aggiuntivo nelle mani di chi controlla le imprese. È un po' questa la ragione degli antagonisti, dicendo vatti a fidare poi di cosa succede. Qual è la risposta che chi indica la via delle riforme come lei dà a chi dice attenti però all'intangibilità di questi diritti, parità di salario, parità di pressione fiscale? Dico pressione fiscale perché abbiamo più volte ospitato ospiti che dicono per esempio, guardate che per l'occupazione femminile soprattutto come incentivo qua bisogna applicare una detassazione selettiva per genere, e molte volte abbiamo ascoltato poi i nostri ascoltatori ma anche giurisperiti che dicono però qui c'è un principio costituzionale. Allora, qual è la risposta sua a chi dice attenti ai diritti omologhi che non si toccano? Dunque, prendiamo il caso dei differenziali salariali per regione. Allora, innanzitutto ricordiamo che questi esistevano fino al 1968, sono state abbandonate le cosiddette gabbie salariali in quell'anno, e naturalmente poiché questo ha dato immediatamente luogo a un aumento del costo del lavoro per unità di prodotto del Mezzogiorno, con danno nei confronti dei lavoratori, delle imprese del Mezzogiorno, si è poi subito dovuto applicare la fiscalizzazione degli oneri sociali in modo che alcuni settori e alcune regioni non fossero troppo penalizzate. Allora, a questo punto, quello che allora è stata una scelta politica, diciamo, adesso sembra qualche cosa che è diventato irrinunciabile. Io penso che, come allora si fece un passo in una direzione, adesso si potrebbe pensare a fare passi in un'altra direzione. Perché? Perché non corrisponde né a una situazione di equità né a una situazione di efficienza avere salari identici in regioni d'Italia dove la produttività non per colpa dei lavoratori ma è differenziata e dove il costo della vita è differenziato. Quindi sostanzialmente avere 1000 euro in una bella città del mezzogiorno o avere 1000 euro a Milano non corrispondono alla stessa cosa, né in termini di potere d'acquisto del percettore dei 1000 euro, perché nel mezzogiorno la vita costa meno, né in termini di costo dal punto di vista delle imprese, perché quel lavoratore nel mezzogiorno, ripeto, a parità di tutto, purtroppo non produce in un contesto che appunto in parte non dipende da lui, non produce allo stesso modo. Quindi secondo me in termini di efficienza per le imprese e di equità fra persone diverse del nostro paese si può benissimo rimettere in discussione e dal punto di vista senza attentare ai diritti dei lavoratori. Allo stesso tempo può anche essere una scelta desiderabile, ma veramente desiderabile da parte dei lavoratori. Io credo che ci siano molte persone nel mezzogiorno che preferirebbero lavorare, che so, con un 10% in meno di salario, ma allo stesso tempo avere la certezza di avere un lavoro ugualmente corrispondente alle loro qualifiche, ugualmente sicuro, ugualmente interessante. Perciò io ripeto, è una discussione che dovrebbe essere reimpostata in un modo diverso da come l'ho vista reimpostata negli ultimi tempi e da molti anni in realtà nel nostro paese, perché lo fanno altrove, lo fanno con successo e con soddisfazione, potremmo ricominciare a pensarci anche noi. Anche noi, grazie professoressa. E ripartiamo a questo punto dalla versione invece di Giuseppe Farina per la FIM CISL, e la mia richiesta a lui non solo è di dirci come la pensa la sua organizzazione su quello che è avvenuto ieri a Melfi, ma anche una riflessione aggiuntiva, perché quello che è evidente è che sui media ieri e oggi anche, diciamo, l'ala riformista, coloro che non hanno la posizione del no opposto dalla FIOM CGIL, hanno detto a maggioranza però la Fiat a Melfi sta sbagliando. Mi riferisco a Pietro Chino ieri sul Corriere della Sera, che in prima pagina ha titolato "Perché la Fiat a Melfi sta sbagliando". Mi riferisco oggi a nuove interviste e dichiarazioni anche sul Foglio, che certo non è sospettabile di essere Fiat, di Nicola Rossi, di Franco De Benedetti, di Pietro Chino di nuovo. Mi riferisco all'intervista che c'è oggi di Tiziano Treu, che dice la Fiat sta sbagliando, è troppo dura, e questa è anche una notizia, ovviamente significa che lo schieramento che ha sin qui seguito, condiviso, naturalmente non significa aderendo unilateralmente, ma condividendo la necessità di trattare e contrattare regole nuove dal punto di vista delle relazioni industriali, però si gratta la testa e dice: perché se imbocchiamo questa strada e la Fiat a sua volta tira troppo la corda, rende più difficile anche a noi fare la nostra parte, che non è quella dell'adesione unilaterale, è quella di sostenere i diritti del lavoro in un nuovo contesto più flessibile, ma se iniziamo a darcela in testa non ci capiremo con ogni probabilità. Come la pensa la FIM CISL, Farina? Pronto? Farina, non c'è più? No, è caduto il collegamento, mi pare di capire. Allora, vediamo se lo ripristiniamo. Intanto sentiamo alcuni ascoltatori. Cominciamo con Claudio da Milano. Pronto? Dica, Claudio. Buongiorno. Io volevo porre una questione che riguarda la magistratura del lavoro. Allora, non è che... è un quesito che pongo, insomma. Non è che questi giudici rappresentano, diciamo così, un po' il braccio operativo del sindacato all'interno. Mi scusi, ma stavo facendo un lavoro. E quindi abbiano prodotto in questi 50 anni una sorta di giurisprudenza ideologicamente orientata. E quindi questo potrebbe spiegare molte cose. Claudio, io posso dare la mia opinione, ma è la mia opinione, che non ho la presunzione sia condivisa da alcun altro che da me. Io penso che in effetti, se uno si occupa di giurisprudenza del lavoro, la giurisprudenza del lavoro ha iniziato a rappresentare nella storia del nostro ordinamento una specie di riequilibrio che la magistratura ha deciso di imprimere, ritenendo che per lunghi decenni l'organizzazione del lavoro fosse stata a senso unico, cioè a senso unico troppo nelle mani dell'impresa. Questo credo che sia il segno prevalente in cui si giudica in dottrina e in scienza giuridica la nostra giurisprudenza del lavoro accumulata. Non vado oltre nel dare giudizi politici, perché rispetto alle opinioni diverse di chi è in ascolto, potete pensarla come meglio volete, ma il più dei manuali converge in questa opinione rispetto a che giudizio dare della direzione prevalente, ecco, della giurisprudenza del lavoro italiano. Ora è ripristinato il collegamento con Giuseppe Farina della FIMCISL, spero che abbia sentito la domanda, non la rifaccio, però insomma i riformisti che si grattano un po' la testa di fronte a questa via giudiziale. Dica. Guardi, buongiorno a tutti intanto. Ma insomma, io credo che a conferma del fatto che la Fiat abbia sbagliato a Melfi è dato da, appunto, dal fatto che stiamo discutendo oggi, e l'abbiamo fatto ieri e l'altro ieri, che nel confronto tra Fiat e sindacato si discuta di questo anziché discutere, appunto, dei problemi più importanti che riguardano il futuro del lavoro dei lavoratori della Fiat, riguardano il futuro degli stabilimenti, che credo che davvero siano le cose che tra l'altro ai lavoratori interessano di più e sui quali sono più importanti. Quindi la Fiat ha sbagliato perché, appunto, come dire, ci fa discutere di questo e non discutere delle cose che contano per i lavoratori. La Fiat ha sbagliato perché le sentenze vanno sempre rispettate, le sentenze della magistratura a nostro avviso vanno sempre rispettate e vanno rispettate fino in fondo, cioè vuol dire che andava garantito il reintegro al lavoro dei lavoratori, perché questa era la sentenza e questa sentenza andava in qualche modo, bisognava tenerne conto, e quindi la Fiat ha fatto un errore impedendo il reintegro al lavoro. Poi ovviamente lo stesso varrebbe anche in sede di ricorso, è chiaro che se il 6 di ottobre la Fiat dovesse trovare ragioni, diciamo, nella sentenza di appello, ovviamente lo stesso dovrebbe valere anche per la FIOM, quindi prendere atto di una sentenza della magistratura e rispettarla. Io osservo anche un'altra cosa che trovo anche contraddittorio da parte della Fiat, che bacchetta come sta facendo e come ha fatto e come ha preteso anche nell'accordo di Pomigliano di poter, appunto, di pretendere quindi di rispetto delle regole da parte del sindacato, quindi se il sindacato prende degli impegni, l'azienda, la Fiat ha chiesto, appunto, e abbiamo nell'accordo regolato anche la possibilità di sanzionare il sindacato che non rispetti le regole, e poi e lei è la prima che addirittura, appunto, interpreta in maniera molto personale una sentenza della magistratura. Quindi da questo punto di vista non c'è dubbio che la Fiat sta gestendo male, secondo me, i problemi che ha al proprio interno con un'organizzazione che indubbiamente esprime del dissenso, ma in questo modo mi dà l'idea, appunto, che anziché, diciamo, di concentrarsi sui problemi veri, accetta di deviare. Posso, di valorizzare, certo, i problemi veri. Per posso poter posso farle una domanda, Farina, che poi farò tale quale anche a Landini. La cosa che mi ha colpito oggi, un commento, quello di Gad Lern su Repubblica, titolo Il diktat di Marchionne, è che l'amico Gad concluda con una sua opinione, che viene poi a quel punto fatta proprio da Repubblica, che, no, che lo mette come editoriale in prima pagina, e dice testualmente Gad Lerner: la Fiat che intraprende a Melfi un braccio di ferro con la magistratura dopo quello sulle normative contrattuali a Pomigliano, e ora per giunta su un pretesto esile come il blocco dei carrelli automatici durante uno sciopero, a me non sembra esile, ma sono le parole di Gad, prosegue Lerner dicendo: dubito che miri a una riforma organica del diritto del lavoro italiano, più probabile e che cerchi, questa è la sua conclusione, una motivazione simbolica per dislocare altrove i suoi futuri investimenti. Cioè, Gad scrive, qui si va ai giudici e la Fiat fa i muscoli perché i 20 miliardi in realtà che dice di voler investire in Italia, col cavolo che li vuole investire davvero, e questa è la posizione di Gad Lerner e di Repubblica. Chiedo a Farina e alla FIMCISL, è questa vostra stessa impressioni, potrebbe essere anche per voi questa impressione che pure a Pomigliano avete detto sì, oppure le sembra eccessivo un giudizio di questo genere, Farina? Ma guardi, noi stiamo a quanto Marchionne negli incontri che abbiamo avuto, lui ha confermato quindi il piano Fabbrica Italia, e questo noi l'abbiamo ritenuto il più grande risultato dell'accordo di Pomigliano, che insomma è importante per Pomigliano, ma era importante soprattutto perché, appunto, impediva alla Fiat di fuggire dal nostro paese con la sua produzione automobilistica. Quindi noi stiamo, stando alle dichiarazioni, agli atti veri, che quelli che poi alla fine fanno la differenza, ovviamente, insomma, Noi non abbiamo questa preoccupazione, io sono sicuro che la Fiat intende, come dire, sviluppare in Italia, anche perché ci sono degli interessi, non è beneficenza, insomma, ovviamente deve affrontare i problemi dell'organizzazione produttiva, sulla quale noi siamo disponibili ovviamente a discutere, come abbiamo fatto su Pomigliano anche sugli altri, però indubbiamente io credo che ci sia un interesse anche della Fiat comunque a mantenere un forte presidio produttivo in un mercato come quello italiano, che non è insignificante, diciamo. Ecco, anche detto, perché, questo, ecco. Detto questo, però voglio anche aggiungere che devo dire che dai comportamenti della Fiat, appunto, in questa, diciamo, ricerca forzosa quasi anche da parte sua delle ragioni più del conflitto che del consenso, il dubbio, capisco Lerner, perché il dubbio può avvenire, devo dire che in qualche momento ha sfiorato anche noi, ecco. Se vuole aggiungo un ulteriore elemento, certo, a conferma, dica. Di questo, l'accordo di Pomigliano, in effetti, quando a un certo punto la FIM, la UIM e gli altri sindacati hanno fatto quell'atto di importante responsabilità, lo hanno fatto proprio in quel momento, avevamo avuto la sensazione che se la Fiat si alzava da quel tavolo non si sarebbe più riseduta. Ecco, questa è anche un po' la mia impressione, e devo dire che anche in Confindustria credo che si stia molto attenti a evitare che si alzi, perché quando Marchionne fa dichiarazioni come quelle che trovate oggi per esempio a pagina 3 Corriere della Sera, dicendo Marchionne conferma tolleranza zero, no a comportamenti illegittimi, le fabbriche vanno gestite e io ci riesco in altri paesi, se non ci riesco in Italia, arrivederci. Questa secondo me diventa poi una condizione, io apposta ho usato le parole di Gadlern, l'ho chiesto, adesso lo chiedo anche alla FIOM, perché temo che questo sia uno scenario di fronte al quale poi ci vuole una risposta precisa. Uno può dire abbraccio il terribile diritto, se non ti va bene che chiudiano gli stabilimenti. Fiat Justitia, pereat mundus, la vecchia massima kantiana. E rimaniamo senza stabilimenti, tutti contenti, e voglio vedere come facciamo. Mi si potrà dire, è un paradosso, bisogna difendere invece il fatto che nelle fabbriche non comanda solo il padrone, e a quel punto comunque lo faremo ragionare, lo obbligheremo a ragionare, e la Fiat resterà aperta e continueremo a essere produttivi. Punto interrogativo, perché questo valeva con una Fiat di un tempo, con questa mi pare di no. Ecco, Landini, allora, che dice di fronte a queste dichiarazioni di Marchionne riportate oggi sul Corriere, tolleranza zero? Ma guardi, io il Corriere non l'ho letto e purtroppo è caduta la linea, non sono riuscito a sentire molta parte del dibattito. Dunque, ma le sintetizzo, Farina della CISL, della FIM CISL, ha detto di fronte al giudizio che richiamavo di Gallerner, la Fiat secondo noi si vuole alzare e andarsene più che fare le prove di forza, le fa apposta, il rischio è che qui i 20 miliardi non ci siano in Italia. Farina ha detto, noi questa sensazione iniziamo ad avercela anche noi, proprio per questo vogliamo che resti seduto, questa è stata la risposta di FIM CISL. Allora io ho controbattuto dicendo, chiederemo a FIOM CGL se sia meglio difendere il diritto e l'intangibilità del diritto eccetera eccetera, ma col rischio che poi qua si chiude davvero, e a quel punto non è che si chiude Termini, si chiude Pomigliano, il rischio di non fare i 20 miliardi di investimento promessi, e Repubblica, altri scrivono ma davvero li vogliono fare. Allora la mia domanda a lei è, si difende il diritto e l'intangibilità del diritto, ma col rischio che poi Fiat davvero se ne vada e chiuda tutto in Italia? E questa è una prospettiva da giudicare come? Ecco, questa è la mia domanda. Io credo che intanto bisogna dire una cosa, che le trattative non ne ha mai voluto fare. E Farina ne è buon testimone, quando ci siamo trovati l'ultima volta a un tavolo, la Fiat ha semplicemente detto o mi dite di sì alle mie richieste, si stava parlando di Pomigliano, o altrimenti non si discute di nulla. E io vorrei ricordare, siccome si dipinge sempre la FIOM come un'organizzazione che è solo capace di dir di no, vorrei ricordare che in quel momento noi proponemmo alla Fiat di poter, applicando il contratto nazionale di lavoro che c'è, fare anche i 18 turni, cioè di più di quello che l'accordo di Pomigliano dice, la possibilità di fare le pause a scorrimento, e cioè non bloccando la linea ma a turni i lavoratori le fanno, voleva dire aumentare la produttività sulle linee, cioè tutte proposte che andavano nella direzione di dire alla Fiat, con le leggi e i contratti nazionali che ci sono è possibile migliorare la produttività, l'efficienza, facendo degli accordi. Del resto vorrei ricordare che in Italia ci sono molte altre multinazionali. Verissimo. Ma allora per cui noi facciamo accordi, non c'è dubbio. E secondo lei abbiamo fatto cose che possono andare. Secondo allora, la sua organizzazione, perché alle vostre controproposte l'azienda ha detto no? Perché intende affermare un principio che comanda lei, o perché se ne vuole andare? No, io credo che intanto voglia far passare una cosa, che è quella che in azienda chi gestisce orari, chi gestisce condizioni di lavoro, tempi, è l'azienda. L'azienda in modo indiscutibile. E io credo che questa sia una cosa che fa male anche all'azienda, perché pensare che tu puoi far lavorare in straordinario quando c'è la pausa mensa, pensare che tu puoi obbligare i lavoratori quando avrebbero diritto a riposare, perché lavorare giorno e notte ci sono anche dei turni di riposo, violare la legge che dice che tra un turno di lavoro e un altro debbono passare almeno 11 ore di riposo, se no c'è un danno per i lavoratori, cioè violare tutte queste cose, io credo che sia una cosa che non serve neanche all'impresa. E in più, siccome le imprese oggi sono particolarmente delicate e hanno bisogno di lavoratori intelligenti che intervengano sui disguidi, sulle varianze, su quello che succede, se si chiede alle persone responsabilità e di utilizzare il massimo della loro intelligenza, bisogna anche riconoscergli la dignità che attraverso il lavoro gli permette di potersi anche realizzare. Ma Landini, quindi un'idea autoritaria non funziona. Va bene, ma allora in Germania, in America, eccetera, eccetera, c'è una specie di nazismo aziendale al potere, visto che lì accettano retribuzioni diversificate, accettano lavoro aggiuntivo non retribuito per difendere gli stabilimenti, ed è sbagliato guardare comunque a questa esperienza. Bisogna fare come se non esistessero, e solo in Italia c'è invece il diritto del lavoro realizzato e il diritto del lavoro difeso da ottimi sindacati. Questo lo dico non polemicamente, solo perché siccome abbiamo fatto metà trasmissione richiamando gli altri dati, vorrei sapere anche come lei la pensa di fronte a differenziali di produttività che sono consentiti in grandi paesi, in democrazie, in posti dove c'è un sindacato con due maroni così e grandi storie di accordi, non posti, finché uno mi dice in Serbia, adesso capisco paesi come quelli, ma qua stiamo parlando dell'America, dove il sindacato dell'auto è una roba che proprio non conta, e della Germania, dopo Lega e Metal, è un grandissimo sindacato metalmeccanico dove c'è, è fortissimo nelle grandi aziende. Allora, di fronte a quegli esempi. Pronto? Sì, posso parlare? Certo. No, perché se lei mi lascia parlare riesco anche a dire delle io cose. Io faccio il mio mestiere, faccio delle domande, se lei dice che io la interrompo, lei fa un mestiere improprio, perché mi pagano per fare domande e la faccio parlare. Ho capito, lei mi fa domande e non mi lascia parlare, se adesso voglio parlo anche della Germania, degli Stati Uniti, ma mi lasci parlare, abbia la pazienza di ascoltarmi. Se mi avete chiamato, lasciatemi lo spazio di poter esprimere il mio vecchio pensiero. Giochetto, sta parlando 5 volte il tempo alla fine, perché no, i protagonisti guarda, oggi siete voi. Comunque, vogliamo fare questa roba, prego, perda tempo dicendo che la interrompo, prego, perda tempo, io ci rido sopra, perché bene il suo mestiere. Ma guardi, il mio mestiere è fare il sindacalista, non è fare dibattiti televisivi, io giornalisti li faccio volentieri per servono, il punto di vista. Esatto. Certo. Allora le dico questo, se parliamo della Germania, però valutiamo due cose. Partiamo dal fatto che gli stipendi in Germania sono il doppio che in Italia. In Volkswagen, facciamo l'esempio, che è il più grande gruppo automobilistico al mondo, su 6 milioni di auto che se voi volete le retribuzioni tedesche senza la produttività tedesca, questo è il punto. No, ma io arrivo, ma se lei vede che continua a interrompere. No, chiedo. L'ho ascoltata. Chiedo. Anzi, io non posso neanche interrompere perché mi togliete l'audio quando posso dire altre cose. Quindi abbia la pazienza, santo Dio. Lei dice dateci le retribuzioni tedesche. D'accordo. Capisco che lei può non essere d'accordo. No, io lo dico solo per renderla più frizzante. Lei dice retribuzioni tedesche. Allora, sì, e le dico anche altri, faccio qualche altro esempio. La Volkswagen fa 6 milioni di auto, perché li fa già lei 6 milioni di auto, la metà di questa produzione viene fatta in Germania. In Italia la Fiat è già nel settore automobilistico al mondo il soggetto che ha delocalizzato più di tutti gli altri, perché produce solo il 25%. Secondo, quando ci sono state delle crisi in Volkswagen non hanno chiuso degli stabilimenti, hanno fatto dei contratti di solidarietà. In cui in Italia, si lavorava in più, non con retribuzione aggiuntiva. No, e voi potete dire no quanto volete, ma è così. Questo 5 anni fa. No, io sto... Guardi, se vuole le mando i documenti in tedesco. tempo dell'accordo sottoscritto. Potete dire tutta la vita che non sono stati dati 5 giorni di lavoro in più senza retribuzione, e state mentendo, perché una volta che dite questo ai vostri lavoratori viene meno la base del vostro consenso. Hanno dato 5 giorni di lavoro in più in un anno a parità di retribuzione, e in più c'è stata occupazione aggiuntiva. Non capisco perché interrompe solo me, non capisco sinceramente. No, ma è perché per dire no. La Volkswagen è arrivata a questo per via di quell'accordo, ma che di 6 anni fa. Ma fare un ragionamento oppure no? Certamente. E allora la smetta di interrompermi, se no, se vuol chiamare per interrompermi la prossima volta può anche chiamare qualcun altro, Cioè, o mi lascia la possibilità di esprimere il mio punto di vista come ha fatto a tutti gli altri che lei ha invitato, o se no mi ha invitato per far che cosa? Glielo chiedo, sinceramente. Che pazienza, e ogni volta facevo questa commedia. No. Le faccio una domanda e vediamo se è in grado di dirmi che sto sbagliando di nuovo. No, ma guardi, lei non mi faccia, non mi lasci dire il mio pensiero. Perché se uno parla di quello che succede negli altri paesi, deve prendere tutto, non è che può prendere un pezzettino per dimostrare, perché se uno fa un confronto, il livello di qualità dei prodotti che ha la Volkswagen non ce li ha, la quantità di investimenti che ha fatto la Volkswagen, gli altri non l'hanno fatto, la quantità di investimenti pubblici che sono stati fatti anche dallo Stato tedesco, non hanno paragoni con altre cose. Quindi non si venga a raccontare, e lo dice Marchionne, che il costo del lavoro incide il 7-8% sul fatturato e sul costo di un'auto, che si venga a raccontare che nel settore dell'auto il problema è il costo del lavoro, perché si dice una cosa che non sta in piedi. Uno dei problemi che la Fiat ha è anche la gamma dei prodotti vecchia, perché fino al 2012 non ce n'è e non si capisce ancora cosa sta proponendo. E anche Marchionne, quando ci siamo incontrati a Torino con tutti, ha ribadito che il piano industriale lui non lo vuol discutere né concordare con nessuno, né con i sindacati, né col governo, né con nessun altro. E che ha rivendicato il diritto di decidere, come ha cambiato per Torino, che non fa più le produzioni, le fa da qualsiasi altra parte. Cioè, quindi volete fare anche, i modelli? Volete fare anche i modelli? Vogliamo di certo. Certo. Chi progetta i modelli sono chi lavora. Noi vorremmo poter discutere e decidere anche sulle strategie, perché quando non si fanno queste scelte, noi sappiamo che quando le aziende hanno prodotti vecchi, chi paga sono i lavoratori. Noi siamo persone responsabili, e siccome chi lavora, chi progetta e chi lavora, ed è importante che chi monta le macchine abbia un rapporto anche con chi progetta, perché ci sia un ritorno. Ma certo, però Landini, lei sta dicendo che è meglio problema. Che chiudano, perché non sono la Volkswagen. No, che è meglio lei. Che chiudano, no, io non questo lo penso lo affatto. Lei. Ma come lo dico questo io? Lo dice lei sta dicendo che qualunque paragone si faccia con case come quelle tedesche e così via, loro hanno investito di più, che è un fatto, perché questo è un fatto storico. Perché c'era un'intensità di capitale che chi controllava Fiat non aveva, quindi ha ragione su questo. Poi dice c'è la bassa Sassonia pubblica, qui non c'è, e ha ragione anche su questo. Poi dice, lei dice, mette in fila una serie di cose per cui non si possono fare paragoni, perché se si facessero bisognerebbe dire che la Fiat non può stare sul mercato, perché ho capito male. Ecco, allora. Guardi che se io non so, vedo una certa difficoltà perché non riesco a finire un ragionamento. Io quello che le sto dicendo è che se c'è qualcuno interessato a che si continuino a produrre auto in Italia, siamo noi, sono i lavoratori, e ancor più di Marchionne, perché mentre Marchionne dice che lui può produrli in altre parti del mondo, noi questa alternativa non l'abbiamo. Mi sembra giusto. Quindi noi siamo assolutamente quelli più interessati a che si produca. Ciò che invece consideriamo non accettabile è la teoria che per produrre auto in Italia bisogna abbassare i diritti, cancellare i contratti, cancellare le leggi. Non è vero, anche perché nel nostro paese ci sono tante altre aziende multinazionali nel settore metalmeccanico, dalla siderurgia all'elettrodomestico al motociclo, dove abbiamo fatto unitariamente forfiore di accordi sui turni, sull'organizzazione, e dove stanno facendo investimenti. Allora quello che io sto dicendo è che semplicemente questa linea che la Fiat in quest'ultimo periodo ha scelto, dove purtroppo non c'è una trattativa, bisogna smentirla questa cosa. Va bene, Landini. Quando un'azienda viene lì ti dice o dici di sì o nulla e alle tue proposte non ti risponde nemmeno. Va bene, Landini. Io prendo l'impegno con lei prendo l'impegno con lei solo perché sono le 10 che noi... Io dico che la vedo malissimo, è nostra mia personale opinione. Io ho un grandissimo rispetto della FIOM, della CGIL e del diritto dei lavoratori. È vero che questa è un'azienda che ha un passato discutibile di bassi investimenti. Oggi però si tratta rapidamente di mettersi al tavolo con uno spirito diverso. Io continuerò, avendo criticato molto la Fiat e avendo pagato nella mia carriera per questo, a pensare che oggi bisogna fare questo cambio di marcia e bisogna dire che Marchionne ha più ragione che torto, non più torto che ragione, non è un fascista aziendale. Questa è la mia modestissima opinione. Appuntamento a domani, grazie a tutti, abbiamo sforato. Yeah.